Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. C'è chi per smettere di fumare prova con lo yoga, chi con l'ipnosi, la meditazione o il tai chi, o chi fa ricorso a integratori e rimedi naturali. Sulla efficacia delle terapie alternative per smettere di fumare non ci sono dati certi, mentre si è dimostrato utile il supporto farmacologico della citisina, una sostanza naturale che al pari della vareniclina aiuta a smettere di fumare. A Obiettivo Salute la dottoressa Alicia Siracusano, oncologa e referente del centro antifumo di Humanitas Cancer Center, fa il punto della situazione. La citisina ha un preciso meccanismo d'azione nei confronti del recettore della nicotina. Noi conosciamo già la vareniclina, in particolare la citisina è la madre della vareniclina e si comporta da agonista parziale nei confronti del recettore della nicotina. Praticamente blocca il recettore della nicotina fingendo di essere nicotina e quindi riducendo il bisogno recettoriale della nicotina stessa. Questo permette all'individuo di togliere progressivamente le sigarette senza, diciamo, soffrire, senza far soffrire i recettori e quindi scientificamente, apparentemente, la crisi di astinenza non c'è. Rimane così il controllo della dipendenza psicologica, cioè l'abitudine al fumo, la giornata passata con la sigaretta, la sigaretta come stampella. E quello è un percorso, è proprio il percorso che si fa nei centri di fumo per imparare a vivere senza la sigaretta. Un estratto di zafferano potrebbe entrare a far parte dei potenziali farmaci anti-Alzheimer. L'estratto di questa spezia, infatti, secondo uno studio italiano, agirebbe un po' come uno spazzino, favorendo la degradazione della proteina beta-amiloide, che è la principale indiziata per la malattia di Alzheimer. A Obiettivo Salute, il professor Antonio Orlacco, direttore del laboratorio di neurogenetica del Centro Europeo di Ricerca sul Cervello dell'IRCCS Santa Lucia di Roma e professore di genetica medica all'Università di Perugia, che ha condotto lo studio, ci spiega com'è nata e come si è sviluppata la ricerca. Lo zafferano contiene molecole con potenti antiossidanti e bioattive che è stato visto da precedenti studi che avevano un potenziale neuroprotettivo enorme. Pertanto noi abbiamo effettuato uno studio in cui abbiamo verificato che in cellule di pazienti affetti da malattia di Alzheimer, vi era una maggiore degradazione della proteina tossica beta-amiloide, che resta la principale indiziata tra le cause della malattia, e quindi questo qui ci ha portato a concludere che probabilmente questi composti potrebbero essere potenziale rimedio terapeutico per la cura della malattia. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 come sempre prosegue con Melo. Io invece vi invito a seguirmi in diretta. Oggi parliamo di fegato. Buona giornata da Nicoletta.